Questo mio non è un fandango, assomiglia più a un flamenco, ma per tratti sembra un tango, forse perché mi avvicino col mio passo misterioso ad un ritmo assai diverso dal mio cuore un po' omertoso. Piango eppure son felice, e il mio tocco delicato va a svoltare le maniche dalle camicie, ed un tratto mi ritrovo già a svuotare le taniche sulle vetrine ed addosso anche a me. Attenzione alle macchine che vanno a fuoco, attenzione a quei bimbi via Cattizzo e Rogo, attenzione tra poco a picca poco a poco. Attenzione ai vestiti che qui brucia tutto, alle barba e ai capelli che scoppiò di brutto, soprattutto che il pizzo che a pizzo perso tutto. Son felice, son questo mare è un nero stagno ed il cielo ora è impastato, sembra libero anche il vento placido nell'orizzonte, e il mio tacco sollevato sta a piegare maglioni sopra gli scaffali, e di colpo mi ritrovo qua a sfondare di calci, banconi e fanali tutto quello che c'è. Attenzione a quei manichini tristi in fondo, fuori dai camerini via non ne rispondo, che anche se non appicco io comunque vado a fondo. State indietro a quel fumo che mi sta pinghiando, attenzione ai miei piedi, no, non è un fandango, non un casco di un tango, ma il viso mio nel fango. Sono